Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Sarà disponibile dal 1 giugno ed è dedicato ai pensionati che percepiscono una pensione fino a 1.500 euro mensile, ma anche alle fasce sociali e ai nuclei familiari più svantaggiati. È il conto di base, lo strumento previsto dalla manovra Salva Italia, realizzato attraverso la convenzione firmata da Ministero dell'Economia e delle Finanze, Banca d'Italia, ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, Poste, Associazione dei Consumatori e Pensionati. Il conto, destinato a tutti, anche a chi è già cliente di una banca o delle Poste, sarà gratuito ed esente da bollo per chi ha un ISEE, il famoso indicatore della situazione economica familiare, ne abbiamo parlato tanto questa settimana, inferiore a 7.500 euro, mentre per chi ha un reddito superiore a questa soglia, le banche si impegneranno ad applicare un canone annuale ragionevole. Come ricorderete, la questione che di prevedere un conto di questo tipo a costi praticamente quasi azzerati si era sollevata in quanto la manovra Salva Italia aveva previsto l'accredito obbligatorio delle pensioni superiori ai 1.000 euro, questione che aveva portato a molti pensionati appunto ad esprimere la propria perplessità, se non la propria rabbia, perché ce ne sono molti. E ce lo avevano testimoniato anche nella nostra trasmissione, che non hanno proprio l'intenzione di aprire nessun tipo di rapporto con nessun intermediario finanziario. C'è chi in assoluto preferisce tenere e ritirare la sua pensione in contanti. Adesso invece per qualcuno le cose cambieranno e cercheremo di capirlo questa mattina. È stata firmata appunto proprio una convenzione due giorni fa tra Ministero delle Finanze, Banca d'Italia, Poste Italiane, Associazione degli Istituti di Pagamento e le Poste, appunto. E a questo punto questi attori sono abilitati ad offrire appunto servizi di questo tipo, questo conto di base, che per la verità è un duplice conto. Poi vi spiegheremo esattamente questa mattina le caratteristiche di entrambe appunto le tipologie. Quello che ci chiediamo noi oggi è che cosa devono fare le famiglie che potranno beneficiare di queste condizioni. Magari hanno già un conto e possono modificare le condizioni del conto già preesistente alleggerendo il carico dei costi, ma soprattutto come si certifica alla banca le proprie condizioni finanziarie per avere diritto al conto di base agevolato. Allora, tante le domande, 800 24 00 24, il numero verde che vi dà l'opportunità di arricchire la rosa delle domande da girare ai nostri ospiti questa mattina. Ci potete anche scrivere al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Salvadanaio ha anche un profilo Facebook che è salvadanaio-radio24. Buongiorno al dottor Gianfranco Torriero e bentornato, anzi. Buongiorno. Direttore centrale dell'ABI, Associazione delle Banche Italiane, buona giornata. E grazie anche ad Ivan Pedretti, invece segretario nazionale dello SPCGL, sindacato dei pensionati italiani. Segretario Pedretti, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho già anticipato agli ascoltatori come sempre le modalità che possono utilizzare per porci delle domande, dei quesiti e interagire con noi. Prima di entrare nel merito del tema di questa mattina, andiamo invece ai temi di borsa in rapidità. Vedo un'accelerazione al ribasso per i listini del vecchio continente, che avevano aperto così con il segno meno nel tentativo di consolidare i rialzi degli ultimi due giorni, seguiti, come ricorderete tutti, a lunedì nero per i mercati europei in particolar modo. Poi c'è stato un cambio di direzione, tutte positive le borse europee ad un certo punto, Milano è arrivata a guadagnare un punto percentuale, adesso invece cambio di nuovo di direzione verso il basso, Parigi scende lo 0,7%, Francoforte meno 0,51%, sulla parità Londra, Milano perde oltre un punto e neanche a dirlo le vendite stanno ritornando e fioccando su tutti i titoli del settore bancario, però il peggiore è Finmeccanica che perde 5 punti, Popolare dell'Emilia Romagna meno 4,37%, Banco Popolare meno 3,31%, meno 3 punti e mezzo per la Popolare di Milano, meno 3 per UbiBanca, Diasorin, Mediaset, Unicredit, Mediobanca e Buzzi Unice. Segno più questa mattina lo troviamo invece su STM che guadagna un punto e mezzo, Salvatore Ferragamo più 1,12. Il Tesoro ha collocato con successo gli 8 miliardi e mezzo previsti di bot semestrali, con una buona domanda peraltro a far da contraltare 14 miliardi e mezzo di titoli richiesti da parte degli investitori, però i rendimenti sono di nuovo in salita anche in questo caso, anche su questa scadenza all'1,77%, siamo comunque per fortuna ancora ben lontani dai picchi toccati alla fine dello scorso anno, quando il bot semestrale arrivò a registrare un rendimento lordo del 6,5% per poi cominciare cominciare a scendere, arrivando al 3,5% di dicembre, il 6,5% fu toccato a novembre. Adesso siamo ancora su livelli sostenibili, ma di nuovo in risalita. Lasciamo la borsa e lo spread. Lo spread ha ritoccato i 398 punti base stamane, ma lasciamo i mercati e andiamo al tema di oggi. Andiamo al tema di oggi, appunto, a spiegarvi in che cosa consiste, quali sono le condizioni di questo conto corrente di base rivolto alle famiglie svantaggiate e soprattutto ai pensionati, e quei pensionati che secondo le misure della manovra Salva Italia hanno l'obbligo di accreditare la loro pensione. Volevo subito partire dal segretario nazionale del sindacato pensionati della CGIL, Ivan Pedretti. Segretario, allora, i giornali raccontano di una platea di potenziali interessati al conto di base di 850.000 pensionati. Forse questa era però la stima iniziale quando la misura fu varata. Magari nel frattempo, appunto, in questi ultimi tre mesi molti pensionati si sono organizzati e hanno attivato lo strumento su cui accreditare la pensione. Ma in ogni caso, qual è adesso il clima rispetto a questa novità che ha spaventato molti? Un po' più sereno, oppure c'è ancora preoccupazione, c'è ancora chi dice: io il conto corrente non lo voglio aprire neanche per scherzo? Noi dati ultimi che avevamo 15 giorni fa eravamo attorno ai 600.000 persone che dovevano ancora attivare il conto corrente. E ovviamente tra queste persone ce ne sono una parte che sono site o in casa di riposo, non sono in grado di poter accedere e attivare il conto e ritirare i soldi per conto proprio, per cui anche questo è un tema che abbiamo affrontato nella cosiddetta convenzione, e queste sono le persone più disagiate, con più difficoltà sostanzialmente. Noi abbiamo sempre ritenuto che, pur essendo una norma nei tempi necessaria, non sicuramente si rifaceva all'evasione fiscale attraverso questa operazione. Una parte di cittadini vi ha aderito, si tratta ovviamente oggi di rispondere a quella quota di persone che ha redditi più bassi, pensioni che viaggiano tra i 1.000 euro e qualcosa in su, o poco insomma, tenendo conto che alcune persone scavallano i 1.000 euro con la tredicesima. Anche questo è stato un tema su cui dovremmo affrontato. E adesso spiegheremo ai nostri ascoltatori anche com'è finita questa questione. Il primo acceso dall'inizio, certo, è che si potrebbero fare le cose con un tempo maggiore, un'informazione migliore verso i cittadini, evitando di spaventarli e di metterli ulteriormente in difficoltà. Cosa che abbiamo sollevato anche noi, segretario Pedretti, per la verità, già, come dire, il tempo è arrivato poi alla fine, anche se appunto su anche sollecitazione delle organizzazioni appositamente dedicate a gestire le questioni dei pensionati, e quindi anche per merito appunto delle vostre sollecitazioni, perché all'inizio l'obbligo di accredito della pensione su un conto sarebbe dovuto partire il 1 marzo, se non ricordo male, invece adesso si parte il 1 luglio. Pertanto gli strumenti disponibili per i pensionati o le famiglie disagiate saranno disponibili dal 1 di giugno. Dottor Torriero, direttore centrale del l'ABI, ci racconta in sintesi che cosa stabilisce questa convenzione che avete firmato 2 giorni fa voi con il Ministero dell'Economia, con appunto la Banca d'Italia, con le Poste, gli istituti di pagamento. Quali sono le 2 tipologie di conto che si rendono disponibili per i pensionati, appunto, e per le famiglie che hanno difficoltà economiche? Perfetto. Allora, il primo elemento fondamentale è che questo conto, che in via sintetica lo chiamiamo conto di base, è un conto di pagamento di base, così come viene indicato nella normativa approvata nel decreto sia Salva Italia e poi corretto nel decreto liberalizzazione. Quindi è un conto di pagamento di base, ha una funzione principale che è quella di inclusione finanziaria. Cosa sta a significare questo? Deve creare le condizioni perché tutti i cittadini italiani possano utilizzare uno strumento semplice, comparabile a un costo contenuto. Questa è la finalità principale. Quando si parla di inclusione finanziaria, quindi, la normativa in realtà la riferiva a coloro che non erano già bancarizzati o che non hanno già un conto corrente con le Poste. In realtà, con il Ministero dell'Economia e gli altri sottoscrittori dell'accordo, e anche sentite sia le associazioni dei consumatori e sia i sindacati dei pensionati, abbiamo allargato l'operatività del conto non solo a coloro che non avevano già un conto, ma anche la possibilità di avere questo conto anche a chi è già bancarizzato. Quindi questo è un elemento importante. Il conto di base, il conto di pagamento di base può essere richiesto teoricamente da tutti i soggetti. Poi questo conto prevede, specificamente lo prevede la legge, la possibilità di essere sottoscritto a costo zero, cioè a un canone zero, e anche con la totale esenzione dell'imposta di bollo per coloro che hanno un reddito ISEE inferiore ai 7.500 euro annui. Quindi esiste una prima categoria di persone che sono quelle che sono socialmente svantaggiate, così come era indicato nella normativa, è stato identificato come livello di identificazione del socialmente svantaggiato i 7.500 euro di ISEE. Volevo anche ricordare un'altra cosa, dottor Iero, mi scusi se la interrompo, che comunque entro giugno è previsto che il governo riorganizzi anche le modalità di calcolo dell'ISEE, per cui ricordiamoci anche di questa novità, che per le famiglie interessate dovranno anche monitorare questo aspetto. Chiusa parentesi. Il 1 maggio il Ministero dell'Economia dovrà emanare le nuove modalità di definizione di questo indicatore. Però ecco l'elemento importante: esiste un conto di pagamento accessibile a tutti. Questo conto di pagamento, di cui poi descriveremo in dettaglio i contenuti, è totalmente gratuito per una fascia di cittadini che hanno un livello di ISEE inferiore ai 7.500 euro annui. Inoltre la normativa, in particolare il decreto legge liberalizzazione in sede di conversione, ha previsto che anche i pensionati con una pensione mensile inferiore a 1.500 euro possono avere una gratuità solamente della componente relativa al servizio bancario, non anche dell'imposta di bollo, nel caso per quanto riguarda l'operazione di accredito della pensione e di utilizzo di questa pensione. Quindi ci siamo mossi in questa ottica, sostanzialmente come se esistessero tre punti di riferimento: qualche cosa che è valido potenzialmente per tutti i cittadini, un vantaggio sia di ordine fiscale sia di costo di questo conto corrente per quanto riguarda fasce che hanno un reddito particolarmente contenuto, e poi per i pensionati fino a 1.500 euro mensili alcune operazioni, in particolare quelle di accredito della pensione e di utilizzo della pensione, che sono gratuite, ma questo conto non ha l'esclusione dell'imposta di bollo. Pedretti, io tra poco devo andare in pubblicità, ma le chiedo un giudizio complessivo rispetto alla convenzione firmata due giorni fa. Soddisfa completamente la categoria dei pensionati, perché noi fondamentalmente oggi ci dedichiamo a questi, perché la questione inizialmente, ricordo ancora, era stata sollevata proprio per la faccenda dell'accredito obbligato delle pensioni di importo superiore ai 1.000 euro. Pedretti. Sì, sostanzialmente sì, si risponde ad una serie di problematiche che noi avevamo da tempo sottoposto, e viene in aiuto a soggetti più svantaggiati. Inoltre apre una possibilità anche per i pensionati con oltre 1.000 euro, fino a 1.500 euro, di ridiscutere il proprio conto per alleviarlo di un costo. In una fase di crisi questo è del tutto utile, insomma. Allora, eccoci di nuovo insieme a raccontarvi come funziona il nuovo conto di base. Secondo quanto stabilito da questa convenzione firmata al Ministero dell'Economia pochi giorni fa, tra appunto Ministero, Associazione dei Consumatori, Poste, ABI, Associazione delle Banche Italiane, proprio per mettere a disposizione dei pensionati che percepiscono una pensione superiore ai 1.000 euro questo strumento sul quale appoggiare e accreditare la pensione secondo l'obbligo che è stato definito dalle manovre Salva Italia. Ora, questo era già successo quando ce ne eravamo occupati in passato, stanno ritornando e rifioccando di nuovo tutte le perplessità e commenti di molti ascoltatori, che chiaramente riparlano dell'ennesimo favore fatto alle banche. Un ascoltatore dice: è vero che l'evasione fiscale si combatte obbligando i pensionati ad aprire un conto corrente? Certamente no, anche perché la platea è talmente ridicola dei destinatari di questo provvedimento che è ovvio che non si combatte sicuramente in questo modo. C'è un tema generale di lotta alla diffusione del denaro contante, magari qui il dottor Torriero dell'ABI mi potrà aiutare e di promozione di strumenti di pagamento più efficienti. È un complesso di iniziative di più vasta portata che chiaramente nella sua rosa vede anche il tema dell'evasione fiscale, e io ci metto anche però le questioni legate alla sicurezza, perché un pensionato che magari non si muove bene e che tutti i mesi va a ritirare la sua pensione in posta e si porta tutti i soldi a casa, quante volte sono state queste persone truffate magari da persone che si accreditavano come funzionari della posta piuttosto che della banca, che dovevano controllare la veridicità, praticamente la qualità delle banconote portate a casa. Ci sono anche tutte sono casi minimi, marginali, eccetera, però insomma c'è una situazione più complessiva da tenere sotto osservazione. Però, dottor Toriero, non è la prima volta che viene mossa questa obiezione. Detto questo, anche voi, come dire, ottemperate ad una misura che vi è arrivata sul collo e che vi obbliga a mettere in campo, in pista, prodotti a costi zero. Adesso io prendo le vostre difese, quindi mi prendo un po' di insulti anche io. Spesso succede ultimamente di avere delle imposizioni, di offrire dei servizi a costo zero, è un po' incoerente rispetto alla struttura di mercato che noi abbiamo. Però a prescindere da questo aspetto specifico, un elemento importante, e qui è proprio il confronto che noi abbiamo avuto, a prescindere da ciò che diceva la norma, perché la norma non faceva riferimento, non coinvolgeva direttamente né le associazioni consumatori né il sindacato dei pensionati, mentre come ABI ci siamo attivati anche con una sollecitazione reciproca su questo, abbiamo cercato di creare delle condizioni per cui la convenzione andasse oltre quello che c'era scritto nella norma. Quindi oggi, per esempio, è vero che la platea dei pensionati che non hanno già un accredito da pensione su un conto corrente bancario o su un conto corrente postale è abbastanza limitata, cioè circa, appunto dai numeri che venivano citati in precedenza, 600.000 individui. In realtà questo conto di pagamento di base, per quanto riguarda l'accredito della pensione e l'utilizzo della pensione, può essere riferito a tutti i pensionati sotto i 1.500 euro, non solo quelli che non sono bancarizzati, ma anche quelli che sono bancarizzati, e quindi il numero diventa molto più ampio, è circa il 70% dei pensionati italiani, quindi anche in questo caso potenzialmente i soggetti che possono usufruire, cioè hanno un utilizzo molto basico, molto di base del loro rapporto con la banca e con le poste, ovviamente possono usufruire di questo servizio. Infatti, che, ricordo, è gratuito per quanto riguarda la commissione applicata. L'imposta di bollo è stata confermata. Quella deve essere applicata. Allora, sì. Pedretti, mi chiedo se anche il sindacato pensionati voleva aggiungere qualcosa rispetto al ragionamento iniziale che ho fatto, su, perché io immagino che molte lamentele in questo senso siano arrivate anche a voi. L'evasione fiscale non si combatte certo chiedendo ad un pensionato che percepisce appunto delle prestazioni di questi importi, non si combatte certo appunto l'evasione fiscale chiedendo a questi pensionati di aprire un conto corrente. Insomma, voi che cosa avete risposto, con le stesse motivazioni che ho portato io, oppure insomma avete detto loro avete ragione, c'è poco da fare? Sostanzialmente sì, siamo di fronte ad un disegno di legge che noi abbiamo ritenuto sbagliato, anche perché la pensione ha le trattenute alla fonte, per cui non c'è via, non c'è scappatoia rispetto all'evasione fiscale. Di fronte a quella condizione messa dal governo sulla manovra salvavita, pur non essendo d'accordo, abbiamo ricercato le soluzioni che fossero più vicine ai problemi delle persone che noi rappresentiamo, e sostanzialmente quei pensionati che hanno pensioni molto basse. Certo, devo dire che comunque non è un obbligo aprire il conto corrente, nel senso che, ottemperando la norma, il sistema bancario si è attrezzato e ha attivato questo conto di base. Detto questo, il pensionato che in banca non ci vuole andare può andare alla posta, dove può aprirsi un conto, un libretto di risparmio appunto nominativo, che è totalmente a costo zero, e in qualche maniera al governo dice: guardate, io sono adesso monitorato, quindi ho accreditato la mia pensione regolarmente secondo quanto la legge mi chiedeva, ma non l'ho fatto in banca, se questo lo rende perplesso rispetto proprio all'intermediario con il quale si deve interfacciare. Quindi ci sono anche altre alternative che dovrebbero mettere appunto in sicurezza quei pensionati un po' più emotivamente appunto preoccupati. Direi di sentire qualche ascoltatore, cominciando da Angela da Savona, che sta andando in pensione tra poco, Angela? O... No, buongiorno, no, buongiorno, dottoressa Rosciani. Io ho 79 anni, sono vedova e prendo 907 di pensione. Per fortuna fino a tempo fa andavo alla mia posta. Io sono autosufficiente, anche abbastanza sveglia, quindi spero la sento, che non mi ma, ma è giovanissima. Ma io il mio problema è che vado alla posta che ce l'ha due passi, ne ho due istituti. Vedo delle mie amiche che fanno così, facciamo due chiacchiere, parliamo come se... Io mi trovo, mi danno poi i miei 907 euro, io mi pago le bollette che cerco di accumularle, così me le scalo mentre che prendo la pensione e tutto finisce lì. Ora, siccome loro ha messo quelle leggi, questa nuova legge... Ma lei non c'è, Angela, lei prende sotto i 1000 euro, quindi lei teoricamente non ha nessun obbligo. Lei può prendo 907 euro, io ho sentito dire, allora ho capito male. Ora. Infatti, a meno che io non mi sia persa qualcosa, Pedretti, posso chiedere aiuto a lei? La signora potrebbe essere, come si dice, indetta ad aprire un conto oppure a per la questione della tredicesima. Alla posta per la questione della tredicesima. Che a noi, sia il governo che nella convenzione, dovrebbe essere garantita che lo scavallamento della tredicesima non fa rientrare i pensionati sotto i 1000 euro negli altri. E per cui dovrebbe essere salvaguardata, certo. Così si è impegnato il governo. Così esattamente. Sentiamo se il dottor Torriero di Abis ha qualcosa di più preciso in merito. Come è finita la questione della... cioè diciamo si scavallano i 1000 euro solamente in dicembre quando in un'unica soluzione vengono accreditati due importi, mensilità e tredicesima, e qui arriviamo a 1800 per la nostra ascoltatrice. Certo, certo. Diciamo che appunto questo era un passaggio che era stato sottolineato da più parti proprio per avere una chiarezza. È correlato anche con gli emendamenti che erano stati presentati nell'ambito del decreto in conversione sulle semplificazioni fiscali. Ovviamente qui è il Parlamento e il Governo che devono poi fare chiarezza su questo aspetto. Però io credo che ci sia l'intenzione di risolvere questa faccenda. Sì. Angela, è ancora con noi? Io sì, perché sto a sentire, perché per esempio, mi scusi dottoressa, prego, quando io mettiamo il bollo, non lo so la tassa quanto può essere, non lo so perché non me ne intendo, non ho conto in banca, per cui se ho bisogno... È 34,20 ogni anno, comunque lei... Quanto sarebbe? No, l'imposta di bollo è di 34,20 euro ogni anno. Meno male che almeno questo. Ma se io vado in posta, ecco, allora apro un libretto alla posta, loro mi accreditano le mie 900 euro. Esatto. Le mie bollette, come faccio a pagarle? No, ma Angela, ma lei può dire... La mia pensione è lì, tutta lì, e il Ministero dell'Economia sa che la sua pensione è lì. Poi lei si ritira 200-300 euro, se li porta a casa e paga le sue bollette. Ritorna in posta magari due settimane dopo e si ritira. I suoi soldi sono là, ma ci mancherebbe altro, Angela. Allora ci devo ritornare più di una volta, se no con cosa se vuole, mangio? Se vuole, Angela, può anche aprire il libretto di risparmio. Il governo traccia questo movimento, ma lei può anche ritornare con tutti i suoi soldi. Lo so che è un passaggio molto complesso, anche perché, dottor... Sì, è complesso, ecco. No, diciamo che è inutile più che altro, perché tutto sommato la sua pensione già... Ma in ogni caso, Angela, per lei il problema non si pone, perché lei non ha sopra i 1000 euro, non ha l'obbligo, poi se ha la volontà di aprirsi un conto corrente, no, un libretto di risparmio... No, io la volontà non ce l'ho proprio. Ecco. Se lei io sarei tolta sicura, dottoressa, che io l'ascolto sempre perché ho imparato tante cose da lei. Meno male. Poi guardi, è meravigliosa sotto tutti gli aspetti, umano eccetera. Io le devo dire una cosa, ma sta bene come adesso, quindi adesso il 1° maggio mi vado a prendere le mie 907, il 1° giugno, lo 2, 3 giugno, perché vanno con le lettere dell'alfabeto. Se a me sta così sta benissimo, ma non capisco perché devo entrare a fare sto. Però Angela, se lei ha qualche curiosità su come funziona un libretto di risparmio, l'impiegato della posta sta lì per quello, per spiegarglielo. Lei non ha nessun obbligo, però lei una curiosità se la può togliere, la conosceranno, ci va di spesso. Ma sì, mi spieghi come funziona un libretto? Loro mi dicono perché non lascia qualcosa, loro fanno il loro mestiere, certo. Perché ormai la posta è come una banca, no? No, ma, io invece pagarmi le secondo bollette lei. Senza tanti discorsi. E dirmi adesso mi date la differenza, io ne ho speso 300 fra le bollette perché le accumulo, se ci sono sono le scadenze valide, certo. e mi ritiro la differenza. Ma Angela, allora io vorrei tornare per un attimo anche così un po' commentando l'atteggiamento di Angela, che sicuramente, dottor, anzi vado a Pedretti un attimo. Che cosa ne pensa? Io immagino che anche i vostri sportelli sul territorio si siano affollati di figure tipiche, figure tipo quella di Angela, appunto, che... Beh, certamente noi siamo stati sollecitati da queste figure, da queste persone messe in difficoltà o allertate da provvedimenti a loro sconosciuti, a cui non comprendevano perché c'è uno stato d'obbligo. E ovviamente ci vorrà del tempo per far maturare le condizioni perché tutto fili abbastanza liscio. Teniamo presente che parliamo di persone spesso molto anziane con delle difficoltà. Certo, i non bancarizzati. Avrebbe dovuto essere un po' più attento. No, insomma, su quello un po' più, infatti, rispettoso delle condizioni di queste persone. Anche perché giustamente lo dicevamo all'inizio, non è che i non bancarizzati sono in assoluto coloro che guardano la banca come ovviamente quello spettro, quella figura sinistra che chiaramente è quella che abbiamo imparato a conoscere soprattutto con la crisi finanziaria degli ultimi anni. Il non bancarizzato è molte volte anche proprio una persona molto semplice che vuole mantenere uno stile di vita, un atteggiamento del tutto distaccato rispetto a tutto ciò e che quindi non è capace anche di interagire con l'impiegato bancario, non sa bene che cosa vuole, per cui ecco, anche proprio per un profilo molto modesto dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista economico non ha avuto fino a questo momento bisogno dell'utilizzo della banca e così vuole continuare a mantenere la sua vita, per cui ecco, il non bancarizzato non è solo e sempre il polemico contro la banca, è anche proprio chi ha delle oggettive condizioni di vita che lo rendono non bancarizzato. Andiamo ancora ad un paio di domande. Gianluca da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Salve, volevo fare i complimenti per la trasmissione, anch'io vi seguo. Grazie Gianluca, grazie mille. Probabilmente però mi sono dimenticato settimana scorsa di seguirvi e allora potrei avere una piccola mancanza. Io non ho capito una cosa, allora è stato detto che l'indicatore ISE parla di 7.500 euro. Sì. Cosa c'entra la settimana scorsa, mi scusi? Perché voi avete detto che avete parlato di questo settimana dell'ISE sì, che verrà l'ISE ridefinito dal governo, ma anche qui ancora non abbiamo chiarezza. Vediamo però se abbiamo... Sì, no, volevo capire questo, cioè se il conto diciamo è a zero per quelli che devono quelli che prendono una pensione sopra i 1.000 euro. Allora, 13 mensilità sono 13.000 euro, ammettiamo, sì, il minimo. Il 7.500 dell'ISE mi porta al di fuori di questa condizione, quindi non capivo questa cosa. Se il 7.500 mi fa da un punto di base, vuol dire che sopra questa soglia non posso... Però avere l'ISE non è il reddito lordo, Gianluca, sono due... Mi mancava questo. Ecco, no, sto sbagliando a capire questa cosa. Esatto, qui, cioè non è il reddito lordo che lei percepisce, l'ISE tiene conto di tutta un'altra serie di parametri, redditi complessivi praticamente delle famiglie, la disponibilità di un patrimonio familiare, poi c'è tutta una serie di conteggi da fare secondo certi... Quindi, dottor Torriero... l'ISE è un indicatore, innanzitutto ha un valore annuo, e viene calcolato sull'insieme del nucleo familiare, esatto, anche prende in considerazione più variabili, non solamente quella reddituale ma anche quella collegata alla ricchezza, ma tiene conto anche se si paga un canone d'affitto o si paga una rata di mutuo, quindi, e tiene conto anche della numerosità del nucleo familiare, quindi paradossalmente è un calcolo che non possiamo fare esatto facilmente, ma in genere ci sono i CAF, i centri di assistenza fiscale, che aiutano proprio i dipendenti a poter calcolare il proprio ISE. Quindi però paradossalmente no, siccome lui faceva questo paragone, l'ascoltatore, 1.000 euro di pensione al mese chiaramente sono in 12 mesi 12.000 più la tredicesima 13.000, chi ha una pensione di questo tipo paradossalmente potrebbe avere un ISE di 7.500 euro anche inferiore. Vabbè, diciamo non lo so, adesso questo dipende molto dalla composizione della famiglia, se ci sono tre persone in questo nucleo familiare, certo. Sì, se certo. Ecco. Però diciamo che 7.500 è proprio quel parametro che viene preso un po' in tutte diciamo gli interventi anche pubblici che vengono effettuati per identificare quelle classi socialmente svantaggiate. Certo. Poi la norma ha ampliato in misura significativa, perché ovviamente 1.500 di pensioni nette, stiamo parlando 1.500 euro di pensione nette al mese, è una cifra non di poco conto e che tant'è che la stessa norma ha ampliato l'ambito di applicazione, ma poi ha ridotto il numero di servizi che vengono considerati di tipo gratuito. Allora andiamo a Roberto da Napoli. Pronto, buongiorno dottoressa Rosciani. Buongiorno. Salve, il mio quesito insomma è molto semplice. Io posseggo già un conto postale. Sì. Ogni anno faccio l'ISEE ed è sempre inferiore ai 7.500 euro. Sì. Quest'anno, ci saranno le modifiche dei parametri da parte del governo, però diciamo che verosimilmente il mio ISEE sarà ancora inferiore ai 7.500 euro. Io volevo sapere se è possibile convertire il mio conto già esistente in conto di base, quindi senza cambiare tutte le coordinate. Certamente, certo, perché dice devo spostarmi. Allora, chiaramente qui avendo un conto BancoPosta bisognerebbe chiedere al dottor Sarmi e all'amministrazione delle poste, però ammettendo che succede la stessa cosa in banca, dottor Torriero, per chi ha un conto corrente magari anche dalle condizioni già vantaggiose appunto, ma quelle del conto base, se fossero ancora più vantaggiose e i requisiti finanziari del richiedente ci fossero, io penso che le banche, il direttore di banca dovrebbe fare un semplice passaggio. Però sono due cose diverse, è proprio il primo punto che sollevavo. Una cosa è il conto corrente, una cosa è un conto di pagamento di base, nel senso che il conto di pagamento di base prevede in modo molto preciso e dettagliato le tipologie di servizi che sono associate a questo conto di pagamento. Ecco, allora magari le ribadiamo, così aiutiamo anche l'ascoltatore a capire se ha le condizioni, certo, per spostarsi di là, perché se fa, certo, tre operazioni di base sul suo conto corrente normale che ha ora, magari, certo, ha la convenienza a spostarsi. Do proprio l'elencazione di, ecco, quello che è previsto. In particolare è prevista l'emissione, il rinnovo, sostituzione di carte di debito, cioè si ha la possibilità di avere una carta di debito, cioè il famoso bancomat, per semplificare il concetto. Possono essere effettuate operazioni di pagamento attraverso questa carta di debito in misura illimitata, cioè si può pagare presso i commercianti in misura illimitata, si possono prelevare contanti allo sportello per un numero di 6 operazioni annuali. Eventuali operazioni superiori alle 6 vanno tariffate, ma con un'indicazione che è riportata specificamente nell'ambito della convenzione. Un po' pochine, però 6, non ne potevate fare almeno una al mese? Perché qui c'è sempre l'idea della lotta al contante. Quindi proprio gli scoraggiati in ogni modo. Quindi 6 operazioni annuali di prelievo. Poi, mentre l'utilizzo della carta del bancomat, della carta di debito, per fare il prelievo allo sportello della propria banca o del proprio gruppo bancario è limitato, è possibile anche fare all'interno di questo conto di pagamento di base 12 operazioni di prelievo tramite ATM di altre banche, che spesso hanno sollevato tutta una serie di polemiche. Poi c'è la possibilità di avere di effettuare i bonifici, 12 operazioni di bonifici all'anno, 12 pagamenti dal punto di versamenti in contanti o tramite assegni, quindi si può versare in contanti o tramite assegni per 12 volte l'anno e si può solo ricevere pagamenti, incluso l'accredito dello stipendio o della pensione, fino a 36. Quindi operazioni. Se questa è l'operatività media del nostro ascoltatore che ci ha chiamato, media, magari farà anche meno operazioni rispetto a tutte quelle che abbiamo elencato fino a questo momento, e mi pare che sia assolutamente possibile che possa trasferirsi, se il conto che ha già, con il quale fa queste operazioni, gli costa un po' di più rispetto a quello base, che invece è quasi gratuito, è chiaro che gli conviene fare una chiacchierata col direttore e chiedere questo trasferimento. Non c'è bisogno di un trasferimento, potrebbe aprire un conto di pagamento di base mantenendo il suo conto attuale. Ma lì allora tutta la finalità di rendere un po' le cose leggere per i nostri ascoltatori, dottor Torriero. Bisogna dare tutte le informazioni, perché sì, diciamo, c'è l'opportunità di mantenerli entrambi, però teoricamente. Però questo elemento di potenziale criticità, che al conto di pagamento di base non possono essere aggiunti ulteriori servizi. Certo. Cioè, se il nostro avesse una carta di credito, questa carta di credito non può esserci. Cioè, questo conto non è un conto che può andare in scoperto. Lui deve prendersi la lista di queste operazioni che lei ci ha detto, capire se durante l'anno non fa oltre tutto questo e allora gli conviene andare sul conto di base perché azzera davvero i costi. L'ultima puntata, siamo all'ultima settimana delle pillole curate in collaborazione con l'INPS, stiamo facendo una sintesi dei punti cardini della riforma varata di recente, oggi parliamo della totalizzazione dei contributi. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. La riforma Monti-Fornero favorisce maggiormente la cosiddetta totalizzazione dei contributi. Che cos'è? E in che senso la nuova legge la agevola? Il lavoratore che ha contributi versati in diverse gestioni previdenziali, INPS, casse, gestioni separate, e che non ha maturato il diritto alla pensione in nessuna di esse, può cumulare i versamenti effettuati presso le diverse gestioni per conseguire la pensione. Può essere utile chiedere la somma dei periodi lavorativi in questione, perché può capitare che ciascuno di essi, da solo, potrebbe non dare diritto alla pensione. Questo meccanismo si chiama totalizzazione dei contributi. Fino allo scorso dicembre era possibile considerare solo periodi di lavoro superiori ai 3 anni, ma la riforma Monti-Fornero ha eliminato questo vincolo. La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori, dipendenti, autonomi e liberi professionisti, ed è completamente gratuita, a differenza della ricongiunzione. In pratica, ogni gestione calcola la pensione sulla contribuzione complessiva e liquida la quota di pensione di sua pertinenza, sulla base dei requisiti e dei criteri stabiliti nel proprio ordinamento. Vi prometto che entro la fine di maggio, entro giugno, comunque un'altra puntata sul conto di base la facciamo. Grazie a Gianfranco Torriero dell'ABI, Ivan Pedretti della SPCGL, dell'organizzazione appunto dei pensionati aderenti alla CGL. Salvadanaio torna domani. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.